Letture di Radio 24. Nei giorni in cui nell'Italia centrale gli psicologi aiutavano i ragazzi a superare il trauma della perdita della propria famiglia, in alcune prestigiose università americane, gli studenti venivano sottoposti a terapie per superare lo stress dopo la sconfitta della Clinton e la vittoria dell'odiato Trump. All'Università del Michigan si sono visti nei giorni scorsi studenti che giocavano con la pasta di pane, coloravano dei libri, montavano Lego e facevano bolle di sapone. Idem al Barnard College della Columbia University, dove gli studenti sono stati invitati a colorare sorseggiando cioccolate calde, e all'Università della Pennsylvania, che ha creato uno spazio terapeutico ad hoc con libri da colorare e persino veri cuccioli da accarezzare. Originali pause antistress? Sì, ma con un fine specifico: riuscire ad affrontare il lutto e lo shock della vittoria di Trump in America, un evento che ha dato vita ad una vera e propria nuova patologia, il PTSD, President Trump Stress Disorder. La peculiare sindrome ha colpito le università liberal statunitensi, dando luogo ad una serie di insolite iniziative da parte di professori e studenti. Alla Cornell University, ad esempio, gli studenti esausti, scioccati, con il cuore spezzato e terrorizzati, sono stati invitati ad un pianto collettivo accompagnati da tazze di caffè di Starbucks. Alla Rice University hanno partecipato in massa a un terapeutico abbraccio di gruppo, mentre alcune università come Berkeley hanno creato spazi protetti per donne e membri della comunità LGBT. Ma soprattutto, nei campus di tutto il paese, gli studenti hanno chiesto ai professori di cancellare le lezioni e posticipare gli esami, chiamando in causa proprio la paura e il trauma emotivo. Petizioni per l'interruzione della didattica sono state fatte alla Loyola University, al Bryn Mawr College, alla Johns Hopkins University, dove gli studenti hanno chiesto di passare una giornata a letto con una birra ghiacciata perché esausti ed esasperati. Gli accademici della Columbia, di Yale, della University of Connecticut hanno accettato la richiesta come se fossero accaduti una catastrofe naturale o un attacco terroristico. Anche gli stessi professori, d'altronde, hanno spinto gli studenti a rimandare gli esami, postando su Facebook o Twitter poesie, riflessioni o anche inviti a vestirsi caldi e uscire a scioperare. Ma perché tanto shock in giovani preparati e di buona famiglia? Un ragionamento provocatorio lo ha fatto il sito Daily Beast, che ha notato che ad essere affetti dalla sindrome PTSD sono stati soprattutto gli studenti delle università più prestigiose. Chiuse in una bolla di progressismo liberale, nonostante le politiche di integrazione delle minoranze, sono diventate istituzioni prive di voci repubblicane indipendenti, tanto che, nota l'autore Robby Soave, è più facile incontrare una persona a filo Trump sulla Luna che ad Harvard o a Yale. Ma questo monismo ideologico ha scoraggiato visioni alternative e annacquato il confronto. Forse, conclude Soave, sarebbe stato meglio avere, per superare lo shock, meno pastelli per colorare e più diversità ideologica. USA, USA, USA, USA, we're the land of the free and the home of the brave. USA, USA. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Elisabetta Ambrosi, Salviamo gli studenti dalla sindrome Donald, dal Fatto Quotidiano del 18 novembre. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Letture di Radio 24. Il velo, sempre più indossato dalle donne musulmane anche in Occidente, non è prescritto da nessun obbligo coranico. Il velo non è islamico, si tratta di un costume culturale e sociale. A dirlo non è la solita femminista di origini musulmane o uno scrittore progressista maghrebino che cerca per l'ennesima volta di riaprire la discussione su uno dei più controversi simboli delle società islamiche, ma un dibattito animato da un precedente dell'Università Al-Azhar, il più autorevole centro teologico sunnita, che riesplode sui media arabi nei giorni in cui nella TV canadese ha fatto la sua comparsa la prima presentatrice velata. La decostruzione dell'obbligatorietà del velo nell'Islam è partita da uno sheikh di Al-Azhar, Mustafa Mohammed Rashid. La tesi dello sheikh sottolinea che non è obbligatorio nell'Islam per una donna indossare il velo e ha dimostrato come l'interpretazione dei versi coranici distaccati dal contesto storico abbiano portato alla confusione e alla prevalenza di un equivoco sul velo. Quasi forzato, perché il Corano, ribadisce, non ha detto affatto che le donne debbano coprirsi il capo. Certo, non tutte le donne musulmane portano il velo e non per questo si sentono meno musulmane, anche se devono combattere per questa loro scelta. Nella storia passata e recente, inoltre, lo sheikh non è certo il pioniere di questi argomenti e non è il primo a scardinare alcune interpretazioni tutt'altro che sulla linea della parità di genere nell'Islam. Ma c'è da dire che oggi l'esercito di teologi che iniziano a combattere una certa interpretazione letterale della teologia con la stessa arma della teologia non sono più in ombra e le loro fatwa circolano velocemente nel web. Tuttavia, che il messaggio arrivi da Al-Azhar ha un suo valore e lo acquisisce ancor di più nella misura in cui viene letteralmente risuscitato fino a rimbombare nel web e nella stampa araba, in contemporanea allo sdoganamento dei veli nella moda, dove giovani musulmane, più modelle che modeste e truccate, si presentano con labbra gonfiate e occhi ammiccanti verso l'obiettivo. La copertina di Playboy con una modella velata è l'inizio, alla faccia del pudore, quello sì, consigliato a uomini e donne dal Corano. La schizofrenia dei veli che stiamo vivendo oggi con il loro moltiplicarsi e perdersi, sia di modestia sia di identità, nei paesi musulmani e in Occidente, in realtà è il sintomo del suicidio stesso del velo. Inteso come un lontano simbolo, genuinamente portato con fede, intesa come fiducia sul capo, nel significato più profondo di modestia e pudore da quelle antenate che si affidavano all'interpretazione maschile del verbo di Dio. Il velo di oggi si perde tra la moda, l'identità e la politica, ma soprattutto perde la sua aspirazione, la sua genuinità, quella delle madri e delle donne, cercando un compromesso con la modernità difficile da trovare. Oggi nel nostro paese il capo coperto lo portano in tante ed è in aumento tra le seconde generazioni che in questi anni hanno ascoltato nelle moschee o tra le mura di casa la sola versione dell'obbligo religioso che ha indotto chi non lo porta a sentirsi in difetto. Si moltiplicano le storie di giovani musulmane nel nostro paese che scelgono il capo coperto senza una piena e plurale consapevolezza del suo significato. Ma ciò che più colpisce è che il deficit di consapevolezza investa anche le opinioni pubbliche. Non è accettabile continuare a pensare alla donna musulmana solo come una donna velata, a dedicare i riflettori solo ad essa. Non è accettabile raccontare i musulmani solo dietro il velo e l'Islam. La battaglia sui diritti umani nelle società musulmane deve partire anche dal racconto della sua pluralità e dalla lotta per la loro emancipazione. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Karima Mual per i saggi del Cairo Il velo non è islamico, dalla stampa del 23 novembre. La Corte dei Conti europea calcola errori nei pagamenti del 2014 pari al 4,4% di tutte le uscite. I soli errori incidono per 6,3 miliardi di euro su un bilancio complessivo di 142,5 miliardi, scrive Roberto Ippolito, europeista convinto, nel suo libro inchiesta Eurosprechi, pubblicato da Chiare Lettere. Ecco alcuni degli sprechi più assurdi citati nel libro e riportati da Aldo Cazzullo in un articolo pubblicato nei giorni scorsi sul Magazine 7. In Spagna, l'Europa finanzia la regione Castiglia-La Mancia per un appezzamento registrato come seminativo nel sistema di identificazione delle parcelle agricole. In realtà è una pista da motocross. Sei stati, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Polonia, Slovacchia e Spagna, ricevono aiuti per pascoli permanenti inventati in aree impossibili. Le pecore non ci pensano proprio a calpestarle, poiché coperte dalla vegetazione, piene di cespugli, arbusti e alberi, e in qualche caso rocciose. Alla sigla UE corrisponde un'istituzione così frequentemente generosa che riesce perfino a rimborsare spese non ancora sostenute. Il saldo delle fatture per l'ampliamento e la ricostruzione di una ferrovia nella Repubblica Ceca avviene prima ancora del via all'esecuzione del progetto sostenuto dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Saliti al 69% nel 2014, i dipendenti dell'Ufficio Europeo di Sostegno per l'Asilo, sede La Valletta, con il migliore trattamento per i rimborsi delle trasferte. Non c'è un solo documento che lo motivi. Costo 997.506 euro. I funzionari dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno, ad Alicante, in Spagna, ricevono l'indennità di disponibilità, anche se in congedo malattia, in missione all'estero o in ferie. 440.000 euro nel 2014. Concesso dall'Autorità Bancaria Europea, sede a Londra, ai dipendenti con figli iscritti alla scuola primaria o secondaria, un bonus speciale non previsto dallo statuto per gli oneri elevati per l'istruzione, costo 76.000 euro. Traffico nettamente sotto le aspettative nelle due autostrade verso l'est che la Germania ha preteso di far finanziare da Bruxelles. Eppure lungo 14 strade sulle 19 esaminate dalla Corte dei Conti in Germania, Grecia, Polonia e Spagna. Per il tonno del Mozambico, poi, l'Unione Europea non bada a spese, mostrando un'impareggiabile bontà d'animo. Lo compra a un prezzo superiore di circa 6 volte a quello negoziato. L'UE può superare le resistenze e crescere se, oltre a ritrovare la forza dello slancio ideale e una visione solidale, affronta adeguatamente la questione dei soldi. E la cosa più dolorosa è che noi italiani, convinti che l'Europa fosse una placida mucca nordica da mungere, ci facciamo in realtà la figura dei fessi. Avete ascoltato l'articolo di Aldo Cazzullo? Tutti gli euro sprechi, dal Magazine 7 del 18 novembre.